E sono le 21 adesso, per oggi 27 giugno del 2018, come ogni mercoledì, tradizionalmente questo spazio è dedicato a prove tecniche di trasmissione. Uno spazio che va in onda da adesso sino a circa le 22:30. Oggi 25 o'clock non andrà in onda, quindi saremo l'ultimo spazio in diretta. Uno spazio che ha un telefono, che è quello della radio ovviamente, che è lo 0649 1750, il sito internet www.ondarossa.info. Indirizzo email ondarossa@ondarossa.info. Questo programma ha anche una pagina Facebook, prove tecniche di trasmissione /disorder, dove domani, oltre che sul sito, comparirà la playlist e il podcast. Per sottoscrivere a Radio Onda Rossa, reduce dalla campagna vincente crowdfunding riguardante il nostro trasmettitore, naturalmente si continua a vivere attraverso le sottoscrizioni di chi ci lavora e di chi la ascolta, e quindi il conto corrente postale è 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale del Laboratorio 2001, Birevolsci 56 00185 Roma. Tutto ciò si trova sul sito stesso della radio. Un saluto ad Alessandra qui da Roma, a Like Wake, sempre qui da Roma, con il quale andiamo proprio ad iniziare questa sera questa odierna puntata di prove tecniche di trasmissione. Una recentissima uscita per Stefano Di Serio si chiama Crawling Through the Abyss of Pain Symphonic Noise. Tradizionalmente Like Wake si dedica a ampie partiture temporali, e qui si è veramente superato. Una traccia di 70 minuti e un'altra invece di 6 minuti e qualcosa, che è una cover di Set the Controls for the Out of the Sun, famosissimo brano dei Pink Floyd. E quindi, tornando al brano principale, l'omonimo, ci andiamo ad ascoltare un estratto di circa 10 minuti di questo Crawling Through the Abyss of Pain Symphonic Noise per l'amico Like Wake. Ho già ascoltato un po' di volte questo ultimo lavoro di Like Awake di Stefano Di Serio, questo Crawling Through the Abyss of Pain Symphonic Noise, e mi sento di dire che forse è uno dei dischi più intensi di Stefano. Questa è una vera e propria opera, se si vuol dire, lunga 70 minuti, che noi purtroppo mortificheremo, nel senso che ci ascolteremo tre estratti, uno questa sera e i prossimi due nelle prossime settimane. Estratti lunghi magari, ma purtroppo non potremo sentire interamente i 70 minuti. Cercheremo di estrapolare il meglio, anche se tutti i 70 minuti sono belli, devo dire. Un album che esce ovviamente per Aseptic Noise, che è proprio la label di riferimento di Stefano Di Serio. Risaluto tutti quanti i connessi e qui chi sta in ascolto, perché qui c'è qualche problemino proprio con la pagina Facebook, per cui saluto Alessandra, Raffaele Pezzella da Napoli, lo stesso Like Awake ovviamente, Maya dall'Argentina, Antonella dalla Sicilia, Carlos Silva da Mexico City. FM Genovese, Luciano, qui da Roma, Fabio FK Drone da Londra. Il buon Ugo Braida, sempre qui da Roma, affezionato ascoltatore che abbracciamo. Presumo che anche lo streaming vada bene, perché nessuno ha detto niente in contrario, quindi credo che si sia ascoltato bene questo Like Awake. Salutiamo Nicola, e giustamente dice che per chi fosse interessato bisogna aggiornare in continuazione la pagina, perché ha qualche problema. Lo streaming va bene, grazie Nicola. Allora, noi andiamo avanti e ce ne andiamo a Wrocław in Polonia, attraverso un artista indigeno proprio di quella città che risponde al nome di Ghost of Breslau. Breslau, per chi non lo sapesse, è il nome in tedesco di Wrocław, città che appunto una volta apparteneva alla Germania, che invece poi da molti molti anni è tornata alla Polonia. Salutiamo anche Alessio. Ghost of Breslau, dunque, tre lavori e altre 3-4 compilation. Certe fonti ne portano un certo numero, Backcamp ne porta altre. Vabbè, noi comunque qui abbiamo il secondo lavoro del 2007, e Should the Spring Come, e verrà la primavera, un bellissimo nome, però con una copertina nebbiosa. Un album che contiene 13 tracce prive di titoli, semplicemente 1, 2, 3 eccetera, per cui noi ci ascoltiamo le prime tre tracce. Il fruscio fa parte del disco, ovviamente. Eccolo qui, Ghost of Breslau. Przysięgam w obliczu narodu polskiego. Przysięgam w obliczu narodu polskiego. Ce face și stati și falciu cerilor ei urmări și șengă în ciuda rodul pe slevo și șengă cu șengi ca nu pe cerile voi și cine mai și cu zboli și voi stați și ubiți ce la strași ești cu nou eu vă zboli și ești voi nu mai și se mă știu am și o grani de o să o rețe poți și cu zboli și cu zboli și cu zboli și cu zboli și cu zboli și cu zboli și cu Ed è bello questo fruscio, devo dire, inserito in questo CD, che dà un fascino arcano ed arcaico. Il polacco Ghost of Breslau, proprio proveniente da Wroclaw, dove peraltro si tiene un bellissimo festival ogni novembre, al quale ho assistito l'anno scorso, che consiglio vivamente. Un album particolare ed eclettico tra ambient, martial, con degli accenni cabarettistici, come le prime due tracce hanno testimoniato. La Polonia è una vera e propria fucina di talenti, soprattutto in ambito neofolk e industrial in genere. Torniamo in Italia, a Napoli, lo salutiamo di nuovo, Raffaele Pezzella, che tutti ormai sanno muoversi anche come musicista attraverso il suo progetto Sonologist. Silencers, The Conspiracy Theory, Dossiers, ultimo lavoro per lui, un album bello che parla di frequenze captate dallo spazio, di mondi alieni, di mistero cosmico, ma anche magari di servizi segreti che vanno a nascondere chissà quale notizia e informazione scientifica. Noi ci andiamo ad ascoltare Infrared, The Secret Societies, The Kennedy Speech. Thank you. Finally, the government at all levels must meet its obligation to provide you with the fullest possible information outside the narrowest limits of national security. So it is to the printing press, to the recorder of man's deeds, the keeper of his conscience, the courier of his news, that we look for strength and assistance, confident that with your help, man will be what he was born to be, free and independent. But now we have a direct testimony from someone who actually was serving during the Kennedy administration. I mean, during the time of Kennedy's administration, Corso was working for the Foreign Technology Desk for the Army's Research and Development Division. So, you know, he was actually Lieutenant Colonel running a particular branch of the very secretive desk at the Department of Defense, and he was working directly with his mentor of Lieutenant General Trudeau. And so also in that testimony, that video testimony that I believe was made in 1998, shortly before he died, he basically said that what happened was that he was able to speak with the Attorney General, Robert Kennedy, back in 1962, and it was not one meeting, that there were several meetings with President Robert, and that he told Robert Kennedy about UFOs, about the technology, and that some of this technology was really critical for taking America sitting on the table, and I'd ask him if he would like says, well, what do you think? And then I said, well, what do you think, sir? And he looked back at me, and with that, just that phenomenal smile of his, he says, I asked you first. So I laughed about that, and I said, well, sir, I'm an old Southern boy from down in Georgia, and my grandfather was a Methodist preacher down there, and for us to believe that we're the only intelligent beings in the world is unbelievable. So, yes, I believe that there is such thing as other human species as well as UFOs. And what did he say? He says, you're right, young man. And I just wish I knew then what I know now to have been able to go ahead. Bene, anche questa sera abbiamo apprezzato l'ingegno e l'opera di Raffaele Pezzella come sonologist, un grande lavoro per questo artista napoletano. Esatto, frequenze aliene, come sottolinea Carlos Silva da Mexico City. Un artista, e non vorrei essere eccessivamente partigiano, in costante miglioramento. Non a caso questo album esce anche attraverso la Cold Spring, che si sa ci vedono lungo, etichetta storica inglese. Dunque lasciamo questo Silencers di Raffaele Pezzella, sonologist. Andiamo avanti, e anzi prima di andare avanti ci andiamo ad ascoltare un paio di spottini brevi di due iniziative importanti per Radio Onda Rossa. Giovedì 5 luglio 2018, Rebecca Lane alla Noce del Sur. Alle 19, parata con il Frente Murghero, si parte dall'isola pedonale del Pigneto. Dalle 22 al CSOA Ex Nia, concerto con Rebecca Lane. Hip Hop dal Guatemala, La Terrorista del Sabor, Cumbia Electro e Fauna, Cumbia Electro Hip Hop. Dall'1 alle 3, DJ set con Il Pinche Perro, Cumbia Electro e Son del Barrio, Cumbia Sound System. Tutto questo giovedì 5 luglio al CSOA Ex Nia, via Prenestina 173. Martedì 3 luglio, Casale Garibaldi. Cena e assemblea in solidarietà con Lavinia Flavia Cassaro, l'insegnante licenziata per la partecipazione a una manifestazione antifascista. Il 7 giugno è stata licenziata Lavinia, un'insegnante che durante un presidio antifascista a Torino nel febbraio 2018 ha protestato contro le forze dell'ordine che proteggevano un comizio fascista. Lavinia non era a scuola, era nel suo tempo libero, eppure la sua condotta è stata considerata indecorosa. È stata messa alla gogna mediatica, sospesa dal lavoro, infine licenziata. Colpiscono una per minacciare tutte e tutti. La solidarietà è un'arma. Martedì 3 luglio a Casale Garibaldi per contribuire alle spese legali di Lavinia e per confrontarci su un percorso contro l'autoritarismo nelle scuole e negli altri posti di lavoro. Martedì 3 luglio dalle 20, Casale Garibaldi, via Romolo Balzani 87, Roma. E Dunque avete ascoltato questi due importanti spottini di due iniziative prossime venture. E noi andiamo avanti con prove tecniche di trasmissione. Andiamo nel nord Europa, in Svezia. Una collaborazione, anzi per essere più precisi, tra lo svedese Peter Andersson al secolo Deutsche Nepal e i russi Roitov. Partoriscono un album eccellente dal nome Hit in the Dust, un po' anomala per quanto riguarda soprattutto Peter Andersson, che partecipa, presumo, soprattutto alla voce. Infatti le parti strumentali sono d'appannaggio proprio di Roitov, una sorta di lento electro-industrial, un tappeto sonoro elettronico molto interessante e intrigante, anche se poi esce attraverso la Entertainment Music, etichetta proprio di Peter Andersson, Lina Baby Doll, famosissimo soprannome. Ebbene, questa sera ci ascoltiamo Vertex Insolitus Tenebrarum. salutiamo anche Antonella dalla Sicilia di nuovo. Alessia Sardina qui da Roma. Intanto sta sfumando questa traccia, una delle tracce strumentali di questo Hit in the Dust, l'ultimo lavoro in questo split tra Roitov, progetto russo, e Deutsche Nepal. Roitov è un sobborgo proprio di Mosca, dal quale proviene questo trio russo. It in the Dust, dunque, 21:52, gli 87.9 di Radio Onda Russa. Si va avanti. Torniamo alla Cold Spring, etichetta inglese, e lo facciamo attraverso un'altra artista italiana. Lei è She Spread Sorrow con Alice Kundalini, unica componente di questo progetto italiano. Un lavoro dal nome Midori, incentrato su una figura collegata alla fantasy giapponese, ai fumetti giapponesi. Ci ascoltiamo proprio il pezzo che si chiama End of Midori.